24 mattino, estate, di Gigi Donelli. Mercoledì 22 agosto, buongiorno a tutti, sono le 7 e 16 minuti in questo istante. Oggi, tra le molte notizie di cui parleremo, di cui andiamo a parlare nella prossima ora, ce n'è una che trova anche spazio su alcune prime pagine ed è quella che si riferisce al boom delle tasse locali. Sono raddoppiate in 15 anni e dunque i cittadini sono tartassati dagli enti locali. Negli ultimi 15 anni le imposte di comuni, di regioni e province sono più che raddoppiate. Questo rivela uno studio della CGA di Mestre e insomma tartassati su vari fronti, ma questo raddoppio in 15 anni pesa davvero molto sul bilancio complessivo. Di tutto questo parleremo a partire dalle 8:30 circa. Avremo con noi ospiti per approfondire questa notizia e dei sindaci, anche per sapere se davvero sono loro dunque i nuovi cattivi, quelli che che costruiscono appunto il carico della tassazione più significativo degli ultimi anni. Ma parleremo anche prima, intorno alle 8:20, andremo in Grecia, come sapete la trattativa tra l'Unione Europea, il governo greco va avanti, la linea diciamo dell'intransigenza da parte greca sembra ormai superata. Ora si tratterà magari di capire se la linea dell'intransigenza invece dalla parte Unione Europea sarà a sua volta superata, dando spazio alle richieste che arrivano da Atene. Atene a questo punto non chiede, dice, più soldi, chiede però tempo, chiede ossigeno per fare ripartire la propria economia, per poter continuare ad essere all'interno del sistema euro senza appunto dover svenare letteralmente i propri cittadini. Tutto questo a partire dalle 8:20 circa. Adesso andiamo all'edicola. Da Moody's e Fitch, fiducia sull'Italia. Dunque, inversione di rotta. Borsa BTP in rally, spread a 410. Questo oggi il Sole 24 Ore e sui mercati l'effetto BCE a Milano 2,4% in positivo, è la migliore d'Europa. Intanto bene anche l'asta spagnola. Insomma, segnali di ottimismo sui mercati finanziari. La fiducia negli interventi della BCE, la decisione della Grecia di varare un piano di austerità da quasi 14 miliardi di euro, hanno sostenuto le borse. Milano in maglia rosa con un rialzo appunto del 2,4%. Intanto nel centro pagina già si parla di spending review 2, metà dote per evitare gli aumenti dell'IVA nel mirino, anzi su prefetture e uffici periferici. Sulla spesa altri tagli da 3,5 miliardi, e importante viene segnalata sempre in questo pezzo appunto di taglio centrale l'accordo comuni entrate per recuperare l'evasione fiscale. Da tempo si parla del ruolo che possono svolgere appunto i comuni sul fronte dell'evasione, comuni spesso criticati per non fare abbastanza. Ora in vista un accordo appunto tra l'Agenzia dell'Entrata e l'ANCI per invece dare una svolta su questo fronte. L'Italia salva entro il 2013, insomma le agenzie di rating che ora promuovono il paese, anche per la stampa che dà ampio spazio però a notizie che arrivano invece dal mondo. Da una parte la Siria, la giornalista giapponese uccisa negli scontri con i ribelli, il regime apre uno spiraglio, pronti a discutere sulle dimissioni d'Assad. Fin dalla prima pagina la segnalazione di un ampio reportage da Aleppo. Nel buio le luci dei minareti sfidano gli assassini. Andremo poi a leggere sicuramente qualche passaggio di questi aggiornamenti che arrivano appunto dal Mediterraneo del Sud, dalla Siria. Centropagina invece, come dire, non finiscono mai di produrre immagini, notizie, storie. Liverpool che canta mezzo secolo dei Beatles, via alla settimana dedicata ai Fab Four. 50 anni fa l'arrivo di Ringo Starr che completò il quartetto e iniziò l'edificazione davvero del mito. Repubblica, Moody's loda l'Italia, la borsa vola e anche spazio per la politica. Infatti dalla prima pagina un fondo a firma di Fabrizio Bei sulla ripresa, insomma, della stagione politica. I poli accelerano, riforma elettorale, voto a novembre. Questo secondo Repubblica di questa mattina, ma anche ci ricorda il campionato che riparte. Gianni Mura che scrive appunto sulla ripartenza. Sabato, dice, riparte il circo calcistico e per lo scudetto c'è una sola favorita, ma soprattutto, dice Mura, il campionato sarà salvato dai ragazzini. Pronto con la palla di lardo, le percentuali pronte, impavido e sfrontato, dipendente dal mercato non ancora terminato. Che fai? I soliti giochetti? No, ma se la Sam perde con la Juve Stabia e vince a casa del Barcellona, ammetterete che agosto è un mese davvero strano. Così per il fronte del calcio che scalda i suoi motori, e per il Corriere che in prima addirittura ci ricorda l'estate così da bulla, è scritto di Federica Pellegrini, tra spiagge e social network. Il titolo d'apertura è dedicata alla fiducia, a Moody's anche in questo caso, e diventa Italia un giorno di fiducia. L'agenzia di rating non esclude l'uscita dalla crisi nel 2013, mentre negli Stati Uniti si parla di un rischio recessione. Il ritorno di Batman dal 29 agosto, il supereroe che conosce la paura, invece nel taglio centrale, quindi con, diciamo, la riapertura dei cancelli di varie attività, che una volta si diceva dell'apertura delle fabbriche, e insomma da una parte i test universitari, poi abbiamo tutte le i cantieri che vengono riaperti in queste settimane, anche la stagione dei film ampiamente annunciato, ampiamente atteso, con il Batman che sbarca nelle sale italiane e fa dibattere, un film che segnato peraltro appunto da eventi americani che poco hanno a che fare col film, molto invece con la violenza. Ecco qua, e a proposito di aperture di cantieri che dicevamo un ministro fa, dalla prima pagina del Corriere l'intervista al ministro Barca che dice: voglio vedere le gru nei cantieri. Il cantiere a questo punto ci devono essere le gru, è il momento di attuare quello che abbiamo fatto dal 15 novembre. La gente ora deve vedere le gru nei cantieri, gli asili che aprono, i bandi che partono. Il ministro della coesione territoriale Fabrizio Barca indica al Corriere la missione del governo da qui alla scadenza della legislatura: realizzare gli interventi, vigilare perché la catena decisionale si attivi. E i temi sono davvero tanti, dalla riforma del lavoro alle liberalizzazioni, dalle grandi opere alla riqualificazione degli edifici scolastici, che da solo darebbe lavoro per tempi molto lunghi, e sicurezza, aggiornamento agli edifici dove appunto i ragazzi, le ragazze italiane trascorrono gran parte delle loro giornate. Vediamo il Messaggero. Il Messaggero, apertura diciamo classica questa mattina, la più diffusa, Italia promossa in questo caso. Oltre, qui siamo andati oltre alla speranza, ma proprio alla promozione secondo Moody's. Ma qui in prima pagina il tema delle tasse locali. Eccoli, cittadini tartassati dagli enti locali. Negli ultimi 15 anni le imposte di comuni, regioni e province sono più che raddoppiate. Nella fotografia di centropagina abbiamo invece De Rossi, quindi il giocatore della Roma, che dice: basta tarantelle, resto qui. C'era stata parecchie chiacchiere intorno a sue possibili partenze. Lui adesso dice: resto alla Roma. Ancora dall'Unità, il fisco non strangoli l'Emilia, a rischio le agevolazioni per le zone del terremoto. L'Unità dunque sceglie un taglio diverso, più originale, che ha a che fare con l'attesa decisione che dovrebbe arrivare dal Consiglio dei Ministri, il primo del rientro appunto, che è questo venerdì, in merito alla sospensione del pagamento dei tributi per le zone terremotate, cosa che era stato deciso appunto nell'immediata successione del sisma. Dunque a rischio le agevolazioni per le zone del terremoto. Errani, Zaia, Formigoni, dunque Emilia, Veneto, Lombardia scrivono al Premier: rinvio al 2013 per chi ha una casa o un'azienda inagibile. Il pagamento delle tasse a ottobre rischia di mettere nei guai l'Emilia e le altre regioni colpite dal terremoto. Per questo il presidente Errani, insieme ai colleghi Zaia e Formigoni, hanno scritto una lettera. Chiedono che il pagamento delle imposte venga rinviato al 30 novembre, evitando così la duplice scadenza prevista dai diversi provvedimenti del governo. Soprattutto vogliono che chi ha una casa o un'azienda inagibile a causa del sisma possa pagare entro giugno del 2013, quindi il prossimo anno. In un'intervista che appunto l'Unità oggi pubblica a Errani, Errani dice di confidare in una risposta positiva del Premier, dice è un fatto di equità e giustizia, non facciamo propaganda, chiediamo il giusto. Tutto questo, come vi dicevo, probabilmente venerdì in occasione del Consiglio dei Ministri. Diversa anche la scelta di Avvenire, due fronti del fuoco. Avvenire è tutta l'estate che si occupa in maniera insistente di incendi, di roghi e dei meccanismi criminali che spesso appunto sottintendono queste vicende. I due fronti del fuoco dunque, piromani attivi in mezza Italia, in Campania la camorra brucia i boschi per ritorsione. Solo ieri 127 roghi, pensate, appiccati in molte zone del paese. La Protezione Civile intanto torna a denunciare, presto mancheranno le risorse per gli aerei antincendio. E intanto già si profila un altro tipo di rischio, che è quello dei geologi per l'autunno. Dice infatti uno appunto dei massimi responsabili dell'organizzazione italiana che unisce i geologi e gli studi sul territorio, dice il suolo è distrutto e dopo le fiamme altissimo il rischio di frane. Bisogna prepararsi. Così con Avvenire si anticipa dunque il tema a tutto campo intorno a questi incendi estivi. Faremo più tardi il punto su alcuni passaggi. Il giornale, lo sponsor di Monti indagato per truffa, elogia il Premier e gli tira la volata per il 2013, ma è sotto accusa per aver manipolato i mercati. Questa è, per il giornale di questa mattina, l'agenzia di rating Fitch. Psicanalisi di un campionato matto invece è il taglio centrale, che racconta il perché Cassano cambia sempre squadra. Mentre per Libero è una tabella oggi di fatto a occupare la prima pagina, ed è quanto guadagnano davvero i politici. Svelata per la prima volta la cifra netta che percepiscono dopo i tagli i nostri amministratori. Indennità di fine mandato a parte, naturalmente, anticipa Libero. E così nelle pagine interne, quanto ci costano i politici? Da 6 a 15 mila euro al mese gli stipendi d'oro delle regioni. Ancora caldo bestiale per il giorno, c'è addirittura un leone in prima pagina con un blocco di ghiaccio in cerca di sollievo, un leone alle prese con un ghiaccio gigante. Non è una costruzione grafica, ma una fotografia del bioparco di Roma, dove appunto un leone maschio viene di fatto messo a disposizione un enorme blocco di ghiaccio, ed è caldo bestiale. Mentre si parla sul giorno, e lo si fa più ampiamente anche sul Secolo XIX di Genova, del tema della violenza e delle reazioni nel caso specifico riguarda appunto la Liguria, massacrato dai giustizieri di paesi, spedizione punitiva dopo una serie di furti nella zona, tutti incensurati i protagonisti, gli autori. A Cicagna tre accusati di tentato omicidio per il feroce pestaggio di un marocchino. Bene, con il Manifesto, che invece parla del processo del secolo, il processo del secolo e la mela avvelenata, il caso Apple-Samsung, di cui attendiamo come tutti l'esito. Dicevo, questa è invece la scelta del Manifesto, che appunto racconta, ci aggiorna sulla storia in queste settimane di tensione tra i grandi della telefonia mobile. 7:30 minuti, è tempo di sentire insieme il meteo, poi torniamo con la rassegna stampa. In primo piano. 7:33 minuti, ancora vi ricordo alcuni dei titoli principali. Nel caso della, appunto, ampio spazio alle dichiarazioni, comunicato di Moody's e Fitch, dunque borse e BTP in rally, spread a 410 questa mattina per il Sole 24 Ore. Le borse dunque sono positive e sono soprattutto i titoli bancari che trainano i listini. Milano è la piazza migliore in Europa, lo spread sotto i 410 a dare tono alla borsa. Contribuisce l'asta spagnola dei titoli di Stato, che è andata molto bene con una buona raccolta e con rendimenti in calo. Una situazione insomma ritenuta positiva per i mercati, che provano a essere ottimisti, cosa che serve più che mai. La crisi dell'Eurozona, anche poi ne parleremo collegandoci con Atene tra non molto, la Grecia che annuncia un piano di tagli per 13,5 miliardi di euro, diversamente non sarebbe rientrata nei parametri richiesti per ottenere gli aiuti europei. Insomma, un'agenda che continua a essere fitta, intensa e decisiva per il debito sovrano in Grecia, così come il rapporto pubblicato da Moody's, che sottolinea come l'Italia stia effettivamente attuando sforzi reali, concreti per uscire dalla crisi. Tutto questo sul Sole 24 Ore questa mattina in edicola. Vi segnalo altri due parti, due storie. Da una parte il viaggio che continua nei distretti 20 anni dopo. Oggi si parla delle bambole di Canneto sull'Oglio, un settore, quello appunto dei giocattoli, messo a dura prova dai colossi di questo settore. E poi si parla anche di oro nella nuova tappa che l'Enciclopedia del Risparmio percorre ormai appunto da tutta l'estate, l'iniziativa di divulgazione economica del Sole dedicata alla OO, dunque come oro, bene rifugio d'eccellenza, molto volatile però. E noi riprendiamo, invece stavamo parlando di un altro tipo di bene che non è l'oro ma è la mela, in questo caso è la mela avvelenata. C'eravamo lasciati qui per sottolineare la scelta oggi invece del Manifesto per parlare del processo del secolo. Dunque in California si chiude il dibattimento tra Apple e Samsung sui cellulari e tablet che stanno cambiando il pianeta, ma nella sfida tra iPhone e Galaxy non c'è solo una questione di proprietà intellettuale, è in gioco la supremazia USA nel mercato dell'high tech. Termina con le arringhe degli avvocati il processo che vede contrapposti i due colossi. Da una parte c'è la società fondata da Steve Jobs, che accusa la Samsung di aver copiato l'iPhone e l'iPad, violando così le leggi sui brevetti. Dall'altra parte c'è invece la società sudcoreana, che ammette di essersi ispirata ai prodotti dell'Apple, ma dice che i programmi sono stati invece sviluppati autonomamente. Un processo condotto a colpi di esperti, racconta Benedetto Vecchi, oggi appunto in prima sul Manifesto, e di discussione sulle differenze tra imitazione, riproduzione, copia e originale. Un processo che non ha mancato anche di irritare il giudice Lucy Koch, che ha interrotto un avvocato dell'Apple chiedendogli in maniera piuttosto brutale, dicendo: ma vi siete fatti di crack addirittura. Una altissima tensione in aula, perché la posta in gioco è il futuro del mercato dei telefoni cellulari di quarta generazione, dei tablet. Sullo sfondo campeggia la crisi economica, la perdita della spinta propulsiva dell'high tech nell'economia statunitense, la crescita delle imprese cinesi e sudcoreane, che non vogliono più svolgere il ruolo di mediatrici e aspirano a diventare imprese globali a tutti gli effetti. Allora, dopo le arringhe, la parola passa alla giuria. La sentenza arriverà nel corso di questa o dei primi giorni della prossima settimana. Ritorniamo dunque allo spazio di approfondimento e dalla segnalazione di quelli che sono i temi principali. Abbiamo detto la Grecia dunque tagli per 14 miliardi. Samaras chiede però una proroga: non vogliamo altri soldi, solo più tempo per respirare. La Grecia chiede dunque ossigeno. Vittorio Darold ci racconta come Atene accetta dunque di bere la medicina amara dell'austerità, ma chiede più tempo per realizzare i tagli. In un'intervista al tedesco Bild, oggi in edicola. Il premier Antonis Samaras spiega: non vogliamo altri soldi, chiediamo più respiro per far girare l'economia, aumentare le entrate dello Stato. Più tempo non significa più soldi. Il governo greco si prepara dunque a varare un nuovo pacchetto di misure di rigore, più severo del previsto, quasi 14 miliardi di euro, circa 2 in più rispetto agli 11,5 inizialmente richiesti dalla Troica. Uno sforzo aggiuntivo per chiudere il buco nei conti, rivelato dallo Spiegel qualche giorno fa. Lo fa filtrare questa notizia al ministro delle Finanze, Yannis Sturnaras, al termine dell'incontro con il premier Atene. Dunque, chiede di fatto, anche se non ufficialmente, ma chiederebbe di spostare dal 2014 al 2016 la data limite per attuare la correzione dei conti. Sembra sempre dalla pagina che vi leggo, appunto, dal Sole 24 Ore questa mattina, si registra anche una linea di Berlino più morbida: aperture su allungamento della durata dei prestiti, riduzione degli interessi. Nell'Europa della crisi, nell'Europa appunto in quest'estate così carica di difficoltà, registriamo anche, ci sono stati vari segnali, diciamo, in questi giorni, a proposito di come stia cambiando anche il mercato del lavoro, per chi ce l'ha, per come viene, appunto, per come si ridefinisce in alcuni ambiti. E così un dossier presentato oggi dalla Stampa ci parla esplicitamente dell'addio al weekend. Sempre più italiani lavorano al sabato, aumenta anche il numero di chi passa la notte in ufficio, e si parte da un caso che sembra spiccare all'interno del sistema europeo. Roberto Giovannini scrive: evidentemente in Slovacchia ci sarà qualche regola particolare che trasforma i lavoratori in vampiri. Sono proprio gli slovacchi, infatti, a guidare con uno scarto davvero anomalo la classifica della percentuale di occupati che lavora abitualmente di notte, con il 18,3% del totale, distanziando i britannici 11,3%, i maltesi, i tedeschi con il loro 9,6% si collocano decisamente al di sopra della media europea, che è del 7,8%. Noi italiani invece siamo pochi decimali al di sopra della media dell'UE con 8,1%. Lavorare di notte, dicono intanto gli esperti, non è naturale, fa male alla salute, anche se lo vogliono i mercati. La spiegazione apodittica e definitiva con cui oggigiorno si motiva ogni richiesta di sacrificio a chi lavora o paga le tasse. Una montagna di studi certificano che noi altri esseri umani siamo costruiti da migliaia di anni sulla base di processi fisiologici, psicologici e sociali che prevedono di essere attivi di giorno e inattivi di notte. Lavorare di notte sconvolge tutto questo. Si verificano più infortuni, dicono le statistiche dell'INAIL, si moltiplicano le malattie, gli stati di stress, si fa una vita isolata dal resto della compagine sociale, un prezzo che molti pagano, volontariamente o meno, pur di sbarcare il lunario, a maggior ragione in questi tempi di crisi. E poi, appunto, le classifiche, i lavoratori del sabato, come abbiamo detto, quelli della domenica, anche complessivamente quelle delle ore settimanali lavorate da tutti gli occupati, con numeri molto alti per paesi che sono appunto la Germania in primo luogo, dove si toccano appunto i picchi rispetto al quadro europeo. Cambiamo tema, abbiamo segnalato alcuni aspetti, alcuni temi della politica internazionale. Sicuramente uno di questi è quello che riguarda il caso WikiLeaks, quindi Julian Assange e la vicenda che lo ha visto in questi giorni barricato nel consolato dell'Ecuador a Londra, con una presenza ravvicinata, minacciosa, secondo appunto alcuni delle autorità di polizia britannica intorno alla residenza diplomatica. Oggi su Repubblica un intervento a difesa di Julian Assange in nome della libertà firmato da due importanti registi americani, Michael Moore, Oliver Stone. La maggioranza degli americani, dei britannici e degli svedesi scrivono, i registi appunto, in questo appello di fatto al mondo, la maggioranza appunto di americani, britannici e svedesi non sa che la Svezia non ha formalmente incriminato Assange, ha semplicemente emesso un mandato d'arresto nei suoi confronti per interrogarlo sulle denunce per aggressioni sessuali presentate contro di lui nel 2010. Il governo ecuadoriano, insistono, ha proposto esplicitamente alla Svezia di consentire l'interrogatorio di Assange all'interno dell'ambasciata, cosa che è stata respinta. Poi Assange ha anche impegnato a recarsi in Svezia fin da subito se il governo di Stoccolma si impegnerà formalmente a non estradarlo negli Stati Uniti. Insomma, prese nel loro insieme, le azioni delle autorità britanniche e svedesi indicano chiaramente che il loro vero obiettivo è mandare Assange in Svezia, perché da lì probabilmente, per via di trattati e altre considerazioni, sarebbe più facile estradarlo negli Stati Uniti. Ma dicono Oliver Stone e Michael Moore, se Assange venisse estradato negli Stati Uniti, le conseguenze si farebbero sentire per anni in tutto il mondo. Assange non è un cittadino americano e nessuna delle sue azioni è avvenuta sul territorio americano. Se gli Stati Uniti possono perseguire penalmente un giornalista in circostanze simili, allora, seguendo la stessa logica, il governo russo, quello cinese, potrebbero chiedere l'estradizione di giornalisti stranieri di ogni parte del mondo, colpevoli di aver violato le loro leggi. Un precedente del genere dovrebbe preoccupare tutti, ammiratori di WikiLeaks o meno. Questo, come vi dicevo, è appunto l'appello firmato da Michael Moore, Oliver Stone e pubblicato da New York Times e Repubblica questa mattina, oggi richiamato sulla Prima di Repubblica. Prima di procedere su un altro fronte internazionale, abbiamo fatto le 7:45 e dunque sentiamo come vanno le cose per chi è in viaggio. In primo piano. Aleppo, labirinto di morte, dunque la Siria, con forse qualche novità come quella secondo la quale Damasco sarebbe pronta a discutere le dimissioni del presidente, così viene riportata. Dunque il presidente Bashar al-Assad, ovviamente, che comunque diciamo tema che non potrebbe non precedere l'inizio di una serie di negoziati con l'opposizione. A dichiararlo è stato il vice premier siriano Kadri Jamil. Nel quadro di un dialogo si può discutere di qualsiasi problema, anche di questo. E poi una risposta a Obama, che è tornato a minacciare un'azione militare. E gli USA, dicono appunto a Damasco, cercano un pretesto per invaderci, come hanno fatto in Iraq. Il ministro degli esteri russo Lavrov intanto ammette in guardia l'Occidente dall'intraprendere qualsiasi azione unilaterale contro Damasco. Aleppo, labirinto di morte, si combatte in tutti i quartieri, non ci sono più zone sicure, i ribelli lamentano, il mondo ci lascia nuovamente soli. Questo il reportage di Domenico Quirico sulla Stampa. E poi un'intervista a Jürgen Tedenhofer, che è stato l'ultimo a intervistare il presidente Bashar Assad a luglio, nonché forse l'unico ad averlo fatto due volte da quando è scoppiata la guerra civile. Francesca Paci l'ha incontrato e gli ha chiesto appunto che idea si è fatto di Assad. L'ex magistrato, ex parlamentare della CDU, il partito di Angela Merkel, risponde: Assad ha ammesso di aver commesso anche errori, ha precisato che molte richieste dell'opposizione sono legittime, così come le manifestazioni di protesta pacifiche. Ha detto che persino tra i ribelli, che lui chiama terroristi, c'è chi combatte per degli ideali. Ma la notizia dell'intervista, ignorata dai media occidentali, è la sua affermazione di essere pronto a negoziare con tutti gli oppositori, portatori o meno di richieste legittime, purché depongano le armi. All'inizio la piazza siriana chiedeva democrazia, come a Tahrir, quindi in Egitto. Possibile che ora sia tutta armata e pilotata dall'estero? L'Occidente conosce solo il Syrian National Council, risponde Tedenhofer, i dissidenti della diaspora pressoché irrilevanti nel paese. Dentro la Siria c'è invece un'opposizione armata molto forte e una disarmata fatta di comunisti, liberali o nazionalisti, gente che ha passato anni in prigione ma consapevole di quanto il popolo sia diviso, un'opposizione che ritiene che l'unica via per evitare la guerra civile sia negoziare con Assad. Di loro però, dice ancora Tedenhofer, non si parla o non si parla abbastanza. Ritorniamo in Italia e lo facciamo per riprendere, vi ho segnalato oggi all'apertura tutto campo di Avvenire sui fronti del fuoco, dunque da nord a sud emergenza roghi, il numero è impressionante, solo ieri 127 sono stati appiccati in molte zone del paese, l'allarme rinnovata dalla protezione civile, dice soldi per i Canadair. Ecco alcuni passaggi degli articoli che troviamo nell'ampia dossier appunto di Avvenire. La giornata di ieri è stata particolarmente nera. In Campania sono divampati 32 roghi, ma le fiamme hanno interessato anche la Calabria, dove sono stati registrati 27 incendi, la Basilicata con 18, la Toscana con 12, il Lazio con 11. Le province più colpite dalle fiamme sono Salerno, 21 roghi, Matera, Catanzaro, Cosenza, Potenza, Caserta. In Campania sono circa 1.490 gli ettari di vegetazione distrutti dalle fiamme dal 1 agosto e se non è stata risparmiata la costiera amalfitana, gravissima, è la situazione sui Monti Lattari, in particolare sul Faito. Per una multa danno fuoco alla foresta. Succede anche questo a Sperlonga. Si parla di una vendetta del multato. Una vendetta del multato che, come racconta l'inviato appunto a Sperlonga Antonio Maria Mira, ancora non si era mai visto. Cosa sarebbe successo? Appiccare un incendio come ripicca per una multa per divieto di sosta. Così racconta Roberto Broccoli, comandante della stazione di Itri, specializzato nella lotta agli incendiari. Pensiamo che effettivamente sia stato qualcuno che, arrabbiato per la contravvenzione, l'ha bruciata, buttandola poi tra la vegetazione. Purtroppo non abbiamo trovato i resti, ma alcune persone li hanno visti e le fiamme sono sicuramente partite dalla strada, tutte e due le volte, si parla di due incendi evidentemente, già perché il gesto si è ripetuto provocando due incendi diversi, insomma la stupidità criminale non è isolata. Oltre al danno immediato e al costo dello spegnimento, sottolinea Broccoli, pagheremo le conseguenze alle prime piogge intense, il pendio è molto instabile e dopo l'incendio lo sarà ancora di più, c'è il rischio che frani tutto finendo proprio sulla strada in questione. Ci sono molte ragioni, molti interessi, molte interessi reali o semplicemente appunto reazioni di leggerezza criminale intorno agli incendi. Uno di questi riguarda per esempio il business della legna, dove un sindaco silano accusa e dice: dietro gli incendi che stanno colpendo i boschi calabresi c'è un grande business, un bosco attraversato da un incendio, parla così Luigi Stasi, sindaco di Longobucco, provincia di Cosenza, dunque nel grande spazio boschivo della Sila. Dicevo, un bosco attraversato da un incendio rimane integro al 75%, quindi la legna è ancora buona per fare di tutto. Però, insiste Stasi, dopo un rogo è decisamente più facile ottenere l'autorizzazione al taglio degli alberi, senza considerare che spesso e volentieri si valicano i confini delle aree che dovrebbero essere disboscate. Il primo cittadino affonda il dito nella piaga degli operai forestali, che definisce l'ossatura dell'economia del nostro paese. Aspettano lo stipendio da giugno, da ieri sono quasi tutti in cassa integrazione. Solo a Longobucco, dice, ne abbiamo 70-80, dei quali solo una quindicina sono rimasti al lavoro per i servizi antincendio. Non può bastare per controllare come sarebbe necessario. Ecco una segnalazione che arriva appunto da una delle zone dove questo fenomeno è più significativo. Per il fronte incendi, l'abbiamo appena accennato, quello dei geologi che dicono dopo le fiamme arriveranno le frane. Gian Vito Graziano, che è il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, dice: abbiamo assistito a disastri di natura idrogeologica che erano diretta conseguenza di incendi precedenti. Quest'anno avremo 300.000 ettari in più di territorio bruciato a forte rischio. Come ci si mette in sicurezza? La domanda, la risposta in apparenza è semplice: bisogna ripiantumare, ripristinare le coltivazioni. Ma lì c'è il problema: chi lo deve fare? Chi lo deve fare, chi ha la responsabilità? Ecco, purtroppo è proprio così. In Italia sulla tutela del territorio, dice Gianvito Graziano, non esiste una competenza diretta in capo ad un unico ente. Questo per il tema appunto degli incendi che non si esaurisce dunque alle fiamme, ma già si proietta in maniera preoccupante verso quello che poi in un contesto di schemi, di comportamenti climatici sempre più estremi, quindi che vengono sottolineati, previsti dai maggiori esperti di meteorologia, insomma il passaggio dal grande caldo poi al fenomeno di piogge violente, con le condizioni nel territorio investito, in particolarmente nel territorio investito dagli incendi, sono quelle che preparano altri grossi problemi. Chiudiamo ancora un paio di minuti su il boom delle tasse locali. Ne parleremo a partire dalle 8:30 circa. Vi dicevo, uno studio della CGA di Mestre oggi trova spazio, ampio spazio in prima pagina, per esempio sul Messaggero: in aumento le imposte erariali del 9%, più che raddoppiate dunque in 15 anni, 114% di aumento, di balzo, erano 47 miliardi nel 96, 102 nel 2011. E poi ci sono le storie, perché appunto dal quadro generale ci sono storie locali, storie di chi fa una grande fatica o chi non ce la fa, e dunque nei piccoli comuni, magari lontani dalle grosse città. Uno di questi stamattina sul Giorno: prima morsi dalla crisi, poi l'IMU, le botteghe abbassano la saracinesca. Cambiago, dall'addio a un piccolo comune della Lombardia, dall'addio a un terzo delle vetrine. La concorrenza ci schiaccia, dice, i negozianti si arrendono alla crisi. Cambiago perde in pochi mesi molte attività, esercenti stretti nella morsa del caro affitto da un lato, dal calo vendite dall'altro, decidono di cessare l'attività. A fare le spese della crisi sono soprattutto le attività aperte da poco, nel tentativo proprio di dare una scossa al commercio di vicinato del comune. Ma il ritocco all'insù degli affitti, complice l'introduzione dell'imposta municipale unica e il calo degli acquisti dei prodotti non di prima necessità, hanno creato un mix letale che ha costretto alla chiusura almeno un terzo delle botteghe del paese, e questo è un tema che riguarda questo come tanti altri comuni italiani. Sono ormai le 7:57 minuti, Enrico Pagliarini è già pronto con il GR delle 8, dunque la linea alla regia, noi ci sentiamo a partire dalle 8:20. 24 mattino, estate. Beautiful la Toscana senz'altro, come beautiful è la Grecia senza dubbio, che noi amiamo da italiani, da europei, da cittadini del mondo. Non di meno, insomma, l'estate della Grecia è stata difficile, certo non che la nostra qui sia stata uno scherzo, e sia uno scherzo. Adesso, a proposito di scherzi, segnalo anche un sms, ci diceva Roy questa mattina, un ascoltatore, dice: che meraviglia svegliarsi, accendere la radio e scoprire che mentre ieri eravamo in una crisi devastante, oggi ne siamo praticamente fuori. Insomma, la lettura delle prime pagine provoca anche le vostre battute, i vostri sms, agrodolci, visto che l'agro domina la scena. Ma torniamo dunque alla Grecia, di cui abbiamo parlato anche ampiamente in rassegna stampa. Tagli per quasi 14 miliardi è il titolo del Sole 24 Ore questa mattina sul tema. Le prime righe ci raccontano che Atene accetta di bere la medicina amara dell'austerità, ma chiede più tempo per realizzare i tagli. In un'intervista al tedesco Bild, oggi in edicola, il premier Antonis Samaras spiega: non vogliamo altri soldi, chiediamo solo un po' di respiro. Allora, sull'edizione appunto di Bild.de. Ricordo, Bild è un quotidiano, oltre a un gruppo, insomma, oltre a un web molto attivo. Parliamo di 5 milioni di copie vendute, siamo di gran lunga il più diffuso quotidiano cosiddetto popolare, ma pieno di contenuti che tali non sono, se non nel senso più alto del termine. Dunque l'intervista, vi leggo solo una riga, la domanda del collega tedesco che chiede appunto al ministro greco com'è governare un paese quasi ogni giorno fa i conti col rischio del fallimento, e lui risponde: ma le cose non stanno così, e comunque non abbiamo bisogno di questa psicologia negativa che è come un buco nero che trascina appunto in profondità. I greci hanno eletto un nuovo governo per mettere il paese in un nuovo corso, stiamo facendo progressi nelle riforme strutturali e nelle privatizzazioni, e ovviamente vogliamo sostegno anche dall'Europa. Allora, ad Atene con noi questa mattina Vicky Markaki, buongiorno. Buongiorno dalla Grecia. Buongiorno dalla Grecia, Vicky Markaki, giornalista, collega che ci aiuta un po' a fare anche il conto costante, il contrappeso tra i titoli dei quotidiani, il polso della Grecia. Ci siamo lasciati, come dire, un mesetto fa con un paese che sembrava molto orientato in una direzione di sofferenza, quasi diciamo anti-euro, per sintetizzare. Oggi come ritroviamo la Grecia, Vicky? Ma io credo che la sofferenza c'è ancora tutta, anzi sta aumentando, 14 milioni di nuova austerità, perché non parliamo della prima austerità ma della terza, del terzo pacchetto di misure, è veramente pesante. Dall'altra parte mi sembra talmente ovvio questo che risponde il primo ministro. Io credo che in questo momento il gioco a massacro è questa continuazione nel dire: ma no, non ce la farete, arrivederci, addio, la Grecia fuori, e così via. Chiunque si mette in gioco, lasciamo perdere impiegati statali, i quali hanno già sofferto che più non si può, si trovano con gli stipendi quasi dimezzati, ma chiunque si mette in gioco con la sua piccola azienda privata, chiunque lavora nel turismo, si trova quest'anno a dover rispondere a delle domande veramente inquietanti, le ho sentite io stessa, gente che arriva che dice: ah, ma allora c'è da mangiare per i turisti. Siamo veramente in un continente, in questa Europa unita, senza nemmeno la comunicazione. Questa, cioè, si descrive un'immagine della Grecia veramente carica, nera, carica di fantasmi. A proposito di turismo, è leggenda metropolitana o verità che i greci, che i tedeschi quest'anno sono, diciamo, spariti, esagerando, guarda, Grecia? Posso risponderti. Prego. Molto concretamente, non sono spariti, hanno trovato dei pacchetti di vacanza con pochissimi soldi e sono venuti tutti. Nel piccolo paesino di Creta, dove io ho fatto le vacanze, ci sono persone che vengono da 20 anni e quelle sono tornate. Certo, hanno da ridire su certe cose, perché è normale, però è anche vero che per la prima volta, non so se avete riferito, per la prima volta ieri i giornali tedeschi hanno delle statistiche che dicono, hanno i risultati di una statistica che dice che la Grecia in questo momento è il paese che più lavora e che più paga la crisi. E io credo che il problema è mettere un limite. Io credo che veramente ormai in Grecia, con tanta delusione, quasi tutti hanno una coscienza che questa comunità europea non funziona, che la Grecia non sta a pagare solo i suoi debiti, che deve pagare, ma sta a pagare anche le profonde divisioni nell'animo politico della Unione Europea. E non è possibile, per esempio, che il primo ministro finlandese e il suo presidente hanno delle opinioni così diverse sull'esistenza o no dell'Unione Europea. Non è possibile che un giorno sì, un giorno no, qualcuno dei ministri del governo Merkel ha un'opinione diversa sul vi salveremo o meglio che ve ne andate. Ci vuole veramente l'unione politica. Senza l'unione politica, è ormai ovvio, ogni paese debole sarà isolato o sarà espulso o non ci sarà più. E questo indica, specialmente per chi a giugno ha votato avendo una mano sulla coscienza e pensando molto bene che cosa preferirebbero i partner europei, ha votato secondo coscienza forse sì, ma anche avendo in mente che un governo tedesco non avrebbe mai visto di buon occhio l'opposizione di oggi che proponeva l'uscita dall'euro, se non l'uscita, insomma un default tranquillo. Pilotato. Vicky, ma su questo fronte, proprio le elezioni, appunto le di giugno che hai citato, all'interno della Grecia anche abbiamo assistito a una lacerazione profonda sugli stessi temi, alle spinte del nazionalismo che, come diciamo naturale in queste circostanze, ottiene ampi spazi. Da questo punto di vista, la Grecia, anche se i tempi sono, come dire, non è passato che un attimo rispetto a quello di cui parliamo, eppure le cose cambiano rapidamente, addirittura, come ci scrivono i nostri ascoltatori, in maniera sorprendente. Ecco, la Grecia di questo inizio anno scolastico, per intenderci, ha maturato una maggiore coscienza europea, cioè la scelta che il vostro primo ministro esplicita sulla Bild, avanti per forza in questa direzione, oppure non è così scontato? Io credo che la coscienza della scelta europea è profonda e molto lontana nei tempi. Noi abbiamo accettato la prima volta l'ingresso in Europa anche come una protezione in termini di democrazia. Ricordiamoci che eravamo appena usciti da una dittatura militare che, mentre l'Europa faceva i suoi passi da gigante, noi nel 74 uscivamo appena da un regime militare. Quando siamo entrati nella comunità europea di allora, tutti i greci hanno tirato un profondo respiro di sollievo, dicendo: ormai non si potrà più essere una dittatura in casa nostra, imposta da chi era stata imposta. In questo momento le cose si mettono in dubbio, perché effettivamente in questo momento funziona solo come una unione monetaria, non come una unione politica. Una unione politica capisce che un governo che sta mettendo in ordine i conti, che sta facendo pagare alla gente prezzi altissimi sull'austerità, ha bisogno di almeno un respiro. Il respiro può essere semplicemente un po' di tempo, o possono essere i tassi di interesse un pochettino più ridotti. E questo disagio fa sì che anche chi è profondamente europeo si pensa sopra sul fatto che, in fondo, se si tratta solo di pagare e di sentire che non siete a posto, che senso ha essere in un'Europa? Tanto la difesa comune non c'è. Io pago i miei conti e io pago il 4% del PIL, io greco, per la difesa. La politica sull'immigrazione non c'è. E la Grecia questo tema lo sente molto, in maniera molto, molto sensibile, essendo molto, molto pesantemente. Non è da poco questa enorme operazione, denominata pure in maniera, secondo me, sbagliata, il Xenio Zeus, cioè il Zeus della ospitalità, dell'espulsione degli emigrati illegali. Certo, la pressione che la Grecia subisce alle sue frontiere. Insomma, Vicky Marcacchi, io ti ringrazio di essere stata con noi questa mattina. Effettivamente è molto chiaro, e se vuoi è anche un aspetto condiviso ampiamente, credo, dall'opinione pubblica italiana, insomma il senso della rigidità che diventa durezza in alcune espressioni della politica nel nord Europa, fatica a trovare appunto spazio, comprensione, quando viene poi appunto ricade su paesi, abbiamo sentito e lo sappiamo, la Grecia, paesi che hanno già subito, che stanno soffrendo pesantemente i costi della crisi. Io ringrazio Vicky Marcacchi per essere stata con noi. Sono le 8:32 in questo minuto, in questo momento sono un po' in ritardo, ma sentiamo gli aggiornamenti sul fronte meteo e poi parliamo di boom delle tasse locali. A tra poco. 24 mattino, estate. La burrasca di fine agosto comincia un po' a preoccuparmi. Dovremmo chiedere chiarimenti su questo termine che così io mi porta idealmente in mare, anche se qui da Milano il mare resta purtroppo lontano. Burrasca, alta pressione, abbiamo sentito ancora per qualche giorno, alta pressione anche sul fronte delle tasse locali. Questo è la denuncia, registra in realtà questa situazione la CGA di Mestre. Questa mattina con noi il segretario Giuseppe Bortolussi, buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, tra un momento poi avremo con noi anche dei sindaci che poi fanno i conti quotidianamente con la pressione da una parte, la necessità di reperire i fondi per il servizio. Insomma, che la situazione sia complicata è ben noto, che il boom delle tasse locali porta a raddoppiare in 15 anni, non lo era. Ecco, Bortolussi, qual è la situazione? Sono davvero i comuni, dunque gli enti locali, così cattivi sul fronte dell'imposizione fiscale? Assolutamente no. I comuni sono tra le istituzioni più virtuose del nostro paese. La questione è che questo raddoppio, questo aumento risponde al fatto del decentramento amministrativo che è in atto ancora dagli anni 90. Poi parliamo anche di un inizio di federalismo. Si è portato dal centro alla periferia, molti servizi e anche quindi la tassazione, perché lo Stato contemporaneamente ha diminuito i trasferimenti, quindi nessuna accusa ai comuni, registriamo solo questo fatto, anche per dire una cosa: va completato il federalismo, che non è una questione ideologica, non è né di destra né di sinistra. Se vogliamo dire, nel 2001 il titolo quinto lo porta avanti un governo di centro-sinistra e poi il governo di centro-destra tenta di realizzare il federalismo. Mancano pure i decreti attuativi, mancano tante cose. Fatto sta che stare in mezzo al guado non fa bene al paese. Non fa ecco, bene a proposito di titolo quinto, ieri mattina ne abbiamo parlato in relazione a certi conti, a certe spese sui consigli regionali. Quello che emergeva qui appunto attraverso gli ospiti, che se c'è una parte che non è stata completata è quella dei controlli. Ora, quando si registra, come voi fate, un balzo del 114%, vi sarete evidentemente fate anche una lunga riflessione sulla correttezza di queste imposizioni. Lei dice i comuni sono virtuosi tutti, c'è... No, questo non posso dirlo, non posso affermarlo. Però in linea di massima la stragrande maggioranza dei nostri comuni sono virtuosi. Noi dobbiamo anche considerare che c'è stato un cambio di struttura sociale nel nostro paese. Ci sono molti più anziani, ci sono molti più immigrati. Ai comuni non sono state date più risorse e sono in prima linea ad affrontare queste cose. Certo. Quindi le competenze comunali si sono allargate oltre che aumentate. Pensiamo solo all'assistenza sociale. Quando fa caldo, chi è che assiste poi quegli anziani che hanno bisogno? La polizia piano locale, anticaldo del comune. Se io guardi, dico, se è il problema, poi polizia locale, sicurezza, infrastrutture locali, viabilità urbana, trasporto scolastico, mense. A volte la mensa diventa quasi un momento di welfare comunale per aiutare le famiglie in crisi. Non dimentichiamo che la disoccupazione è arrivata al 10%. Quindi io non è che do assoluzioni o premi ai comuni, dico solo che i comuni che conosco io, ma in generale, sono molto virtuosi e bravi a far fronte a questa situazione. Non escludo che ce ne siano alcuni, ce ne sono alcuni addirittura che sono stati sciolti consigli comunali per mafia, quindi non posso dire che tutti sono virtuosissimi, ma in linea di massima lo sono, e questo non è un atto d'accusa contro di loro, è solo per dire: signori, sbrighiamoci a portare dal centro alla periferia la tassazione, i servizi, perché c'è una cosa molto importante. A livello europeo, paesi come la Germania, l'Austria, la Spagna, il Belgio hanno una caratteristica: sono paesi federali e rispetto a quelli unitari spendono la metà per la gestione della macchina burocratica. Ora, se una cosa di cui ha bisogno l'Italia è proprio di ridurre questi costi, il federalismo sembra adatto a questo, perché il cittadino vede, paga e vota. Non sarà sempre così, ma in questi quattro paesi è proprio così. Attilio Fontana, sindaco di Varese, buongiorno, grazie di essere con noi innanzitutto. Buongiorno. Sindaco della Lega Nord. Allora, come Bortolussi spiega sostanzialmente che questo boom, questo peso sta anche nel fatto di essere in mezzo al guado di un processo appunto di federalismo incompiuto, sta di fatto che i comuni si trovano sempre maggiori competenze e responsabilità e devono fare quadrare i conti. Per voi, lei come la vede? Ma guardi, condivido quasi completamente quello che diceva il segretario. Mi permetto di aggiungere due piccole considerazioni. La prima è che ha ragione nel dire che ci sono delle situazioni anomale, ci sono sicuramente dei comuni che virtuosi non sono, ma che anzi sono prossimi al default, che è sicuramente non una valutazione positiva, però noi dobbiamo fare una valutazione su tutto il comparto dei comuni a livello nazionale, che comprende quelli buoni e quelli meno buoni, comunque è l'unico comparto della pubblica amministrazione che negli ultimi anni ha sempre migliorato la propria posizione debitoria e sempre riuscito a fare dei risparmi. Il comparto dei comuni è riuscito a risparmiare, a ridurre il costo della propria macchina, mentre il resto della pubblica amministrazione ha continuato ad aumentarlo, ha continuato a peggiorare la propria posizione debitoria. Seconda cosa, un altro piccolo esempio che credo sia significativo, lo Stato ha nel corso del 2012 annullato il fondo per la non autosufficienza. Prima lo Stato contribuiva, dava delle risorse ai comuni per risolvere i problemi di non autosufficienza nei confronti di handicappati, nei confronti di minori, è stato completamente eliminato, ma non è che siano stati eliminati i non autosufficienti, i comuni devono comunque intervenire per dare le risposte sociali alle persone che hanno queste necessità, che hanno gravi necessità. Il fondo sociale è stato ridotto a livello nazionale del 75%. Beh, lei capisce che anche in questi casi noi poi dobbiamo comunque intervenire, perché la gente viene da noi direttamente a chiederci di fare qualcosa. Ecco, il comune come centro naturale, come luogo appunto in cui la popolazione, la cittadinanza si rivolge, laddove appunto si moltiplicano i tagli, c'è esigenza di trovare risorse. Lei, sindaco Fontana, è alla guida tra l'altro di un comune ricco, un comune produttivo, un comune che ha capacità storiche di impresa. Insomma, è possibile aumentare sul fronte delle entrate? È possibile chiedere ai cittadini maggiore impegno e magari un impegno sociale anche sul fronte anti-evasione, che anche questo fa parte, diciamo, incide sui costi sociali, sulle scuole, sulle mense, tutto quello che poi viene pagato? C'è margine per questo? Ma guardi, sul discorso della lotta all'evasione, per carità, noi sindaci siamo sicuramente disponibili, il comune di Varese, ma direi gran parte dei comuni capoluogo della regione Lombardia, io parlo della mia realtà, hanno sottoscritto degli accordi con l'Agenzia delle Entrate proprio per dare un contributo attivo a questa lotta all'evasione, anche se bisogna evidenziare che forse sarebbe un compito che spetta allo Stato e non agli enti locali, ma fa niente, noi lo facciamo volentieri laddove questo può servire per migliorare la situazione del nostro paese. Il discorso che lei faceva è chiaro che è in questo momento estremamente delicato, noi abbiamo qualche piccolo margine operativo, abbiamo la possibilità di aumentare l'addizionale IRPEF portandolo fino a un massimo dello 0,8, abbiamo la possibilità di incidere sull'IMU portandolo dalle aliquote base ad aliquote che possono essere più alte, dallo 0,40 allo 0,60 sulla prima casa, dallo 0,76 all'1,06 sulla seconda casa. È chiaro però che in questo particolare momento tutti i sindaci sono nella condizione di cercare di mantenere i servizi senza aumentare in maniera significativa questa ulteriore imposizione, perché poi alla fine sono tutte conseguenze che ricadono negativamente sui cittadini, cioè lo Stato qui se ne è lavato le mani, mette i sindaci nelle condizioni di dover fare gli esattori per raccogliere tasse che in realtà servono allo Stato, quindi è una situazione un pochettino anomala, un pochettino stridente, soprattutto soprattutto in un momento in cui, come diceva giustamente il segretario Bottursi, si dovrebbe iniziare a realizzare una maggior autonomia, anche in positiva, con il federalismo fiscale. Lo Stato centralizza la raccolta delle tasse, delle imposte e mette i comuni in prima linea nella raccolta e impone ai comuni di raccogliere questi fondi. E questo è andato avanti così nonostante anni di governo in cui appunto il principale partito a sostegno del federalismo, quindi il suo partito La Lega, è stato nella Camera dei Bottoni. Cioè sembra che di fronte a questo, quando poi si parla a livello di comuni, qualsiasi governo sia quasi anticomunale. Ma guardi, lei sa, o forse se non lo sa lo ricordo, che io l'anno scorso ho combattuto una battaglia durissima anche contro il governo di cui faceva parte il mio partito. E questo purtroppo è la cosa che mi lascia molto più perplesso, è vero quello che lei dice. Il problema è che in questa elefantiaca macchina burocratica che è il nostro partito, che è il nostro paese, quando si inizia a dover incidere su quelli che sono i gangli vitali, su quelli che sono i gangli delle grandi spese, c'è una reazione che purtroppo è assolutamente bipartisan. Che fa saltare anche certe, diciamo, linee maestre dei singoli partiti. Sindaco, le chiedo solo un momento, abbiamo gli aggiornamenti per Chi è in Viaggio, poi ci spostiamo a Lucca dove ci attende, lo ringrazio per questo, il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini. Aggiornamenti per Chi è in Viaggio. 24 mattino, estate. Accordo ANCI-BEFERA, nuovi obiettivi anti-evasione. A settembre firmeremo con l'agenzia il protocollo per la lotta al sommerso. Questo è uno degli articoli che riguardano evidentemente il tema che stiamo affrontando. Con, lo ricordo, Giuseppe Bortolussi, segretario della CGIA di Mestre, che ci ha portato una serie di dati che raccontano come sia vero e proprio boom delle tasse locali, più che raddoppiate in 15 anni, con Attilio Fontana, sindaco di Varese della Lega Nord, come ci ha appena raccontato che tra l'altro appunto certi meccanismi in certi momenti di crisi, anche gli schemi politici generali, diciamo romani per comodità, poi vadano un po' a farsi benedire sul territorio. Con Alessandro Tambellini, grazie di essere con noi, sindaco, buongiorno. Sindaco di Lucca, allora sul fronte del peso da una parte delle tasse e dall'altra delle entrate, so che Lucca, come dire, si è impegnata come molti comuni, ma insomma in maniera specifica su quello che è il piano delle entrate, della lotta anti-evasione, cosa state cercando di fare? Ma per quanto riguarda la lotta anti-evasione, il comune cerca di dotarsi di tutta quella strumentazione utile in termini di alta tecnologia che consente di incrociare i dati in maniera da avere sempre di più informazioni precise relative al suo patrimonio. Quindi tentiamo di far questo e lo facciamo tra l'altro con un dispendio di risorse molto molto molto limitato che comunque con già quello che abbiamo ci consente di incrociare i dati per vedere se tutto torna. Ecco, quindi, sindaco, ma questo fatto per vedere se tutto torna, perché il sospetto, la sensazione, oppure sono numeri che vi dicono che le cose non tornano, cioè tra ICI, IMU, TARSU, addizionale IRPEF, tasse di occupazione delle aree pubbliche, insomma quelle che sono le vostre fonti di gettito, avete la sensazione che ne manchi una fetta significativa? Non abbiamo la sensazione che ne manchi una fetta significativa. Abbiamo però l'idea di dover mettere a punto un sistema di controllo che consenta di garantire attraverso l'incrocio dei dati che quello che stiamo facendo, che quello che stiamo portando avanti va su delle linee giuste. Cioè, qui non c'è nessuna istanza punitiva, c'è semplicemente da permettere all'ente una funzionalità rispetto ai progetti di rientro sull'evasione fiscale che garantiscano equità. Sindaco, quando si parla di tasse a livello locale, emerge sempre un po', come lei ha detto qualche secondo fa, qui non c'è nessuna istanza punitiva. In realtà, come dire, non dovrebbe esserci. L'istanza punitiva non è l'obiettivo, ma è la condivisione della spesa. Non crede che da parte dei comuni ci sia un eccessivo pudore nell'affrontare il tema dell'evasione? Perché il sindaco di Varese, suo collega Fontana, poco fa diceva insomma non dovremmo farlo. È vero però che le cose si vedono sul territorio, certi casi diciamo clamorosi, espliciti, anche esemplari si osservano dal territorio. Ma noi non abbiamo remore in tal senso, semplicemente perché riteniamo che chi evade le tasse di fatto metta in crisi un sistema per la quota parte, che è un sistema che poi deve fornire servizi a vari livelli, le strade pulite, le strade transitabili, gli asili, le scuole, le mense, eccetera. Quindi l'evasione fiscale ha una ripercussione sulla portata dei servizi molto seria, e noi riteniamo che l'evasione fiscale sia un fenomeno da combattere, in quanto è il primo fenomeno di inciviltà di questo paese, il primo elemento di dissoluzione della vita aggregata di questo paese. Poi su altre questioni, sulle questioni relative all'IMU, relative ad altre applicazioni che riguardano il comune, ci siamo tenuti secondo una linea di molto buon senso. Abbiamo cercato di penalizzare il meno possibile la prima casa, il meno possibile le case affittate secondo regime concordatario, abbiamo penalizzato di più le case sfitte, le terze, quarte case sfitte o seconde, perché ritenevamo di dover soprattutto incentivare l'uso di un bene come la casa, per cui la casa sfitta da molti anni è stata ovviamente sufficientemente penalizzata. Ecco, Sindaco, sul fronte poi dei tagli, mi segnalano anche degli ascoltatori, dice per esempio: noi a Lucca abbiamo un problema, saremo quasi senza servizio di trasporto pubblico da settembre. Che cosa risponde a questa ascoltatrice che ci segnala questa preoccupazione? Davvero? Questo fatto non è assolutamente vero. Noi abbiamo rimodulato il servizio di trasporto pubblico in ragione di ciò che doveva essere fatto un anno fa, all'epoca dei primi tagli provenienti dalla regione. Il comune oggi è nella condizione di non potersi più permettere il trasporto pubblico che ha ereditato dal passato, per il quale spendiamo cifre che fanno saltare il bilancio. Ecco. Noi siamo impegnati nel migliorare il trasporto pubblico, siamo una giunta di centro-sinistra e non siamo certo degli avventati, però abbiamo conti alla mano, necessità di riformulare l'intero trasporto pubblico su base comunale, perché non riusciamo più a pagare quello che commissioniamo. Non ci state più dentro, grazie non Sindaco Tambellini, è chiarissimo. Fontana invece a Varese, mentre a Lucca allora i trasporti pubblici per esempio sono al centro della sensibilità, l'abbiamo veramente verificato al volo attraverso i nostri sms, a Varese dove si taglia, che cosa è la parte dolente? Ma guardi, no, voglio fare una precisazione, non ho detto che i sindaci o che io sono contrario al fatto di combattere l'evasione fiscale, io ho detto che compito dovrebbe essere quello di altre istituzioni che non sono i comuni, però con questo ho anche detto che in regione Lombardia l'ANCI Lombardo è stato il primo a stipulare accordi con l'Agenzia delle Entrate per combattere. Oltre a portarsi avanti su questo fronte. Poi bisogna fare un'altra distinzione, perché un conto sono le tasse locali, un conto sono le tasse a livello statale, perché c'è una discrasia, credo che il segretario Bortolussi potrà confermarmi, i cittadini sono molto più disponibili a pagare le tasse locali, il cui utilizzo vedono direttamente, che non pagare le tasse allo Stato, il cui utilizzo non vedono assolutamente e che non sanno in quale tipo di enorme macchina va. Certo, è anche vero però che se uno tende a sparire per il fisco, tende a sparire su tutti i fronti, cioè non è che poi dichiara di avere un appartamento di 600 metri quadri nel centro di Milano se non fa la dichiarazione, ma comunque... Sì, certo, questi sono clamorosi, ma è abbastanza vero, però le ripeto, noi come fisco locale abbiamo una situazione tale per cui purtroppo o per fortuna le previsioni sono sempre rispettate, cioè non si notano delle discrasie fra quelle che sono le previsioni anche mandateci da Roma e quella che è la realtà. Ma fatta questa premessa di ordine generale, dove andiamo a tagliare? Noi abbiamo cercato di tagliare tutto ciò che non possiamo definire superfluo, ma che dobbiamo definire come meno necessario, come meno impellente. Abbiamo tagliato quindi quasi tutto ciò che attiene allo sport, quasi tutto ciò che attiene alla cultura, abbiamo dovuto tagliare qualche piccola parte di servizi che erano servizi importanti ma non importantissimi. Sul servizio pubblico locale abbiamo fatto quello che sta facendo Lucca, abbiamo cercato di rimanere all'interno di un trasporto che sia logico, che dia la propria risposta alle esigenze, riducendo in qualche verso il numero delle corse, abbiamo cercato di tagliare quelle che ritenevamo meno essenziali. Insomma, però, rimodulare la grande parola d'ordine dei sindaci, inevitabilmente, grazie al sindaco Fontana. Abbiamo inciso tantissimo sulle spese comunali, abbiamo... spese della macchina, dunque. Grazie al sindaco Fontana, grazie di essere stato con noi. Vorrei concludere allora con Giuseppe Bortolucci. Insomma, il quadro complessivo è quello appunto noto, anche descritto. Dove si va, come se ne esce? Cioè, lei ha indicato avanti sulla strada del federalismo? Mi permetto di insistere, quella è la strada. Abbiamo visto che 4 paesi europei federalisti spendono la metà per la macchina burocratica, ma vorrei anche ricordare alcune cose. Nel 2012 la situazione è certamente peggiorata perché l'IMU e l'addizionale IRPEF hanno inciso moltissimo. Anche qui il ragionamento è sempre il solito: i comuni devono affrontare delle spese in più, come fanno? Devono tassare, però... Il discorso è anche questo: la tassazione, quando è vicino al cittadino, corrisponde di solito a un controllo che è nei fatti. Il cittadino si ribella, non vota, reclama se non vede le cose fatte bene. È questo anche che tiene i sindaci sulla corda e li costringe a fare le cose per bene, anche perché quando un qualsiasi cittadino ha un problema non va né in regione, non va in provincia, va dal suo sindaco. Poi ricordo che le tasse di cui stiamo parlando non riguardano nel bene e nel male solo i comuni, ma anche le regioni e anche le province. E l'ultima cosa che mi sentirei di dire è questa. Si è sempre parlato nella realizzazione del federalismo, che ripeto ancora indietro, ci vogliono i decreti attuativi, queste cose, è tutto fermo per ora perché c'è una grave crisi e stiamo affrontando quella. Sì, però si parlava di invarianza di gettito, cioè di invarianza di spesa da parte dei cittadini. Invece l'ultima manovra, abbiamo visto, cos'è che fa? Aumenta notevolmente le entrate, circa il 70%, e il 30% sono tagli, ma quei tagli sono soprattutto tagli a servizi, per cui i cittadini dovranno sborsare ancora soldi per avere gli stessi servizi che avevano prima. Certo, che prima del trasporto locale. Del trasporto locale. Esatto, e di altre. Per cui, piuttosto che dello sport indicato dal sindaco, esatto, di Varese, insomma, anche questo fa parte. Ma è proprio che è sbagliato essere in mezzo al guado, bisogna superare questa fase perché i cittadini hanno diritto alla chiarezza, hanno diritto a sapere da chi sono tassati, quanto pagheranno, ma soprattutto al rispetto di quella clausola, invarianza di esborso. Il cittadino in questo gioco tra lo Stato, cioè l'erario, e l'ente locale, non deve rimetterci, deve pagare quanto pagava prima, perché in Italia lei ha fatto bene a affrontare il problema dell'evasione e anche del sommerso, ma ricordiamoci che di tasse, imposte, tasse, tributi, cioè pressione tributaria, in Italia ne paghiamo più di tutti gli altri paesi. Siamo europei. In cima alla classifica. Grazie a Giuseppe Bortolucci, lo ricordo, segretario della CGA di Mestre. Grazie ai nostri ospiti, Attilio Fontana, lo ricordo, sindaco di Varese, Lega Nord, Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca, PD, lista civica. Insomma, chiarezza, trasparenza, ne abbiamo parlato ieri, ci siamo arrivati ancora questa mattina. Ora è tempo di GR24, poi vi anticipo ospite di Oscar Giannino, Vasco Errani, quindi si parla ancora di regioni, del loro ruolo e delle principali problematiche di questi giorni. A domani.